in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli e benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale del sabato. Questa settimana vorrei iniziare da tre copertine. La prima è la copertina di uno dei due principali news magazine tedeschi, Der Spiegel, che significa lo specchio. L'altro è Stern, che significa stella, e Spiegel ha una copertina. Spiegel ha tipicamente il suo colore tipico è l'arancione, quindi c'è come un riquadro arancione, c'è la Statua della Libertà, è un disegno, quindi la conosciamo tutti, insomma, con la sua veste quasi di romana memoria, e la testa con la corona. Tra l'altro, chi è stato negli Stati Uniti, precisamente a New York, sa che quella corona in realtà è un osservatorio, si può salire fin lassù. Comunque, accanto alla Statua della Libertà, le dimensioni naturalmente non sono quelle reali, c'è Biden su uno sgabello e con la mascherina, perché Biden la porta sempre, anzi ho notato che ne porta due, sotto la N95 FFP2 e sopra una mascherina in generale nera. Sta rimettendo la testa della Statua della Libertà al suo posto, perché appunto l'idea che fosse stata decapitata, e l'unica scritta che c'è è Make America Great Again, che sapete è anche all'origine dello slogan elettorale di Donald Trump, in particolare nel 2016, ma anche in questa campagna elettorale. Se fate l'acronimo è MAGA, ed è quella scritta che appariva su molti dei berretti dei sostenitori di Donald Trump. L'altra copertina invece è dell'Economist. In questo caso è parte del tipico riquadro rosso con la testata, ci sono soltanto due parole: suddenly, virgola, hope, all'improvviso la speranza. In questo caso però il riferimento non è a quello che è successo negli Stati Uniti, l'approfondimento lì si intitola The Economy Joe Biden Will Inherit, quindi l'economia che Joe Biden erediterà. Qui la speranza è quella riferita alle cure e ai vaccini per il Covid. È una sorta di tunnel, alla fine del tunnel c'è una luce, e come sagoma di quella luce c'è una siringa messa in piedi, quindi chiaramente a significare il vaccino. Ma è molto graficamente molto bella la copertina, perché in realtà il tunnel ha la tipica forma del tubo, naturalmente, però ha anche la sagoma tipica che abbiamo imparato a conoscere del coronavirus, con tutte le sue, appunto, le sue piccole escrescenze che tra l'altro appunto gli hanno poeticamente dato a questo Covid-19 e a tutti gli altri il nome di coronavirus. La terza copertina che vi voglio segnalare è quella del New Scientist, che è un settimanale di divulgazione scientifica, perché c'è naturalmente un approfondimento sul coronavirus, in particolare sulle prime elaborazioni sugli effetti dei vari lockdown. Ci si chiede anche what went wrong in Germany, cosa non ha funzionato in Germania, che all'inizio sembrava aver fatto tutto il possibile, tutto irrazionalmente possibile a livello, diciamo, organizzativo e politico per arginare l'epidemia. Poi in realtà sappiamo che la seconda ondata ha colpito anche la Germania. Ma la storia di copertina in realtà si intitola The True Purpose of Our Dreams, lo scopo dei nostri sogni, il vero scopo dei nostri sogni. Credo che Freud a parte, naturalmente, le cui teorie però come tutto quello che riguarda la mente e il cervello non sono scientificamente dimostrabili, ma hanno naturalmente avuto molte conferme però empiriche. Quindi Freud a parte, che cosa davvero significhino i sogni, o come funzionino, che scopo abbiano, nessuno lo sa, e qui invece appunto il New Scientist indaga su questi nuovi studi. Il di Covid però naturalmente si sono occupati tantissimo tutti i quotidiani, tutti i settimanali questa settimana. Vi segnalo magari un paese di cui non ci occupiamo spesso, il Belgio, il quotidiano La Croix, che ha poi tra l'altro anche un'edizione francese, purtroppo torna sul tema che è stato affrontato in molti paesi e che forse non viene codificato, ma in realtà sto parlando di scelte che poi molto spesso i rianimatori o gli anestesisti devono comunque fare tutti i giorni, ed è il tema di quando ci sono posti letto limitati o medici o infermieri limitati e bisogna rianimare o attaccare a un respiratore più di una persona o più appunto della capacità di un reparto, che cosa si fa? E il titolo in questo caso è Reanimation, l'ombra della selezione, cioè l'ombra, appunto, questa ombra del dover fare delle scelte. Sapete che in alcuni paesi, gli Stati Uniti in primis, e in un certo senso anche se non chiaramente e con modalità comunque diverse da cantone a cantone, anche in Svizzera, ci sono delle linee guida per gli anestesisti, per non lasciarli completamente soli di fronte a questa scelta di chi salvare e chi non salvare. Da Liberation di ieri vi segnalo un interessantissimo articolo, e questo per me è proprio il giornalismo, quello vero, quello che magari non fa inchieste dall'altra parte del mondo, ma è comunque un servizio pubblico, nel senso che chi legge impara qualcosa e magari non cade vittima di teorie complottistiche che sono apparentemente nell'era dei social molto facili da diffondere, molto più difficili da demolire. E perché in Francia sta girando molto sui social francesi, ma quindi vuol dire anche chiunque a livello globale, questo chiamiamolo documentario di 2 ore e 45 che si chiama Hold Up, ed è una serie di una collezione di teorie complottistiche sull'origine del virus, su chi ci ha guadagnato, sulle bugie che ci verrebbero raccontate sulle morti da virus. E Liberation ha preso tutte le delle tantissime superficialità, mezze verità e bugie belle buone raccontate in questo documentario, le ha prese e le ha tutte smantellate. E trovate tra l'altro l'articolo, anche questo è un punto di merito naturalmente per Liberation, lo trovate anche sul sito di Liberation. Il titolo dell'articolo è Covid-19, 10 controverità veicolate da Hold Up. E per restare ancora un attimo in Belgio, ma la questione riguarda tutta l'Europa e non solo, quella delle scuole, Le Soir intitolava un paio di giorni fa che il Covid ha accentuato le disuguaglianze scolari, quindi non solo quelle sociali, ma anche quelle scolari. È un tema di cui forse non ci occupiamo abbastanza, perché è verissimo che la didattica a distanza è un problema per chiunque, anche per chi abbia il PC più all'avanguardia o il tablet con la definizione migliore, il collegamento più veloce del mondo, una stanza dove studiare, nessuno lo disturba. Quindi è un problema anche così, perché niente può sostituire la didattica in presenza. Ma pensate, soprattutto, e di questo parla Le Soir, a tutti invece i bambini in età prescolare o scolare, o che comunque frequentano la scuola, parliamo anche naturalmente di liceali, che non hanno queste possibilità e che quindi se riescono in qualche modo a accedere alla didattica a distanza lo fanno comunque a singhiozzo. Vi segnalo è naturalmente una vicenda di cui si è parlato in Italia, lo abbiamo fatto naturalmente anche a Radio 24, perché ha coinvolto un'organizzazione non governativa italiana che si chiama Open Arms. E avete sicuramente sentito prima l'audio e poi addirittura il video di quel tentativo di salvataggio del gommone, dal quale poi si è ribaltato, quindi sono morte 7 persone, e una di queste era un bambino di 6 mesi. E El País, quindi quotidiano spagnolo, ha pubblicato in prima pagina la foto della madre di questo bambino, e il titolo è Tragedia in un naufragio, e perdido a mi bebè, perché l'urlo che abbiamo sentito tutti in inglese, perché la madre parlava anche l'inglese, una donna di origine africana, E ha, appunto, ha urlato: ho perso il mio bambino. Il bambino di 6 mesi, bebè, potremmo dire, è stato recuperato e poi è morto poco dopo. E siccome, ve lo sottolineo, io non sono madre, quindi non posso solo immaginare il dolore di una vicenda così, però siccome purtroppo abbiamo appena parlato del ruolo che hanno i social, chiunque di voi avrà potuto sicuramente leggere dei commenti allucinanti su questa vicenda. Vi sottolineo che appunto questo è il modo di trattare tragedie che descrivere a parole è praticamente impossibile. Una foto oppure un audio e forse un po' di consapevolezza sul fatto che queste tragedie avvengono a pochissima distanza da noi. E vi segnalo anche, per cambiare un po' argomento, in realtà tornare sul Covid, che come sapete il vaccino che Pfizer, il colosso americano, ha messo a punto insieme a BioNTech sarà probabilmente pronto. L'Unione Europea ha prenotato 300 milioni di dosi, però è un vaccino che appare promettente in tutto il mondo, e ne ha parlato anche Haaretz, il quotidiano israeliano, perché anche Israele, quindi al di fuori dell'accordo per esempio dell'Unione Europea con Pfizer, ha prenotato già molte dosi. E di qui torniamo al titolo dell'Economist, tutto a un tratto la speranza. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.